Per l'impianto di casa, per i film, intorno ai 2000 euro, mentre per le casse normali, per la musica, 1500. Con un dispositivo si fanno tutte e due le cose, sì. Si vede il film, si ascolta l'audio del film e si ascolta la musica. Senz'altro, sì. E ti trovi bene? Sì, molto. Prima si sceglie il TV e poi successivamente... Poi si può pensare ad integrarlo, che penso che sia un'ottima idea, certo. Io a casa ce l'ho il Dolby Surround in realtà, però lo uso veramente poco. Anche perché bisogna accendere un altro apparecchio.